Capitolo 1. Studiare all'estero. A. L'inizio del corso. 1. Ascolta il dialogo. Scusi, ha una penna? Sì, prego. Grazie. Devo finire tutti gli esercizi? No, non li deve fare tutti. Ne può scrivere solo una parte. Quando il test diventa troppo difficile, può smettere di scrivere e portarlo in segreteria. Grazie. Non parlo italiano da un anno. È molto difficile ricordare tutto. Preferisco ricominciare a studiare a un livello molto semplice. La capisco. Non si preoccupi. Ora bisogna aspettare un po'. Se ha bisogno di chiedere qualche informazione, Eleonora la aiuta volentieri. Ha già conosciuto la professoressa Eleonora? No, l'ho vista quando sono entrata, ma... Benvenuta, molto piacere di conoscerla. Mi chiamo Eleonora. Molto piacere, professoressa. Possiamo darci del tu? Sì, grazie. Bene, allora, Jenny, ti accompagno in segreteria per completare l'iscrizione. Grazie, Eleonora. Sai che una mia amica ti conosce? Ricordi Anne, la ragazza americana? Sì, certo. L'ho conosciuta l'anno scorso. Ricordo che mi ha invitato ad una cerimonia organizzata a Roma da sua figlia. Come stanno Anne e sua figlia? Molto bene. Anne e io lavoriamo insieme. Sua figlia continua a organizzare eventi, soprattutto per beneficenza, in collaborazione con il mondo dello sport. Viaggia sempre molto. Anne ti saluta e ti aspetta in California. Che sogno! Magari! Non è un sogno. Puoi andare quando vuoi.